Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog Guardie o Ladri. Lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore, oppure lo trovate attraverso un motore di ricerca. È molto visitato, di questo non finirò mai di ringraziarvi. Allora, ieri abbiamo cominciato a parlare di un episodio apparentemente minore che è invece, come dire, molto significativo, perché si parla sempre della punta dell'iceberg, ma l'iceberg è lì, purtroppo è quello che fa danni. E qual è l'iceberg di cui stiamo parlando? L'iceberg delle minacce a chi sul campo opera tutti i giorni costantemente con i fatti e non a parole contro la criminalità organizzata, la malavita. In questo caso stiamo prendendo in considerazione la malavita campana, la camorra, con due episodi di cui uno abbiamo già parlato ieri, vale a dire è quello che è accaduto nel comune di Portici al sindaco Vincenzo Cuomo e al suo addetto stampa Carlo Tarallo, che hanno ricevuto l'ennesima minaccia, questa volta condita da un prezioso proiettile di Kalashnikov che a Napoli più o meno te li tirano in faccia, visto il fiorire del mercato nero delle armi, e hanno ricevuto questo proiettile perché le azioni che stanno mettendo in campo sono azioni che contrastano contro l'indegnità della camorra, ancor prima che contro gli affari dei clan stessi. Questo diciamo perché non esiste soltanto Saviano. Saviano è sicuramente una punta di un iceberg di quello che invece spesso non appare. Quindi lunga vita a Saviano e a tutto ciò che lui rappresenta, cioè l'informazione libera e non condizionata dalla malavita organizzata. E oggi continuiamo a parlarne con chi? Con Nino Daniele. Voi l'avrete già sentito, il sindaco Daniele, ai microfoni di Radio 24 nei mesi scorsi per una vicenda di cui ci siamo occupati, ma oggi lo sentiamo per una manifestazione che io ho apprezzato molto, che avrete potuto leggere su alcuni siti internet, su alcuni giornali, vale a dire degli spot anti-clan clamorosi. Io dico clamorosi perché se andate a visitare il sito del comune di Ercolano, se digitate la parola Ercolano e la parola pubblicità e manifesti su un motore di ricerca, vi appaiono questi giganteschi spot anti-camorra. Buongiorno sindaco Daniele. Buongiorno. Allora, ce li vuole illustrare lei questi lenzuoli enormi che pendono da ponti, palazzi, chiese di Ercolano? Sono appunto dei messaggi che servono, secondo noi, a scuotere le coscienze e soprattutto ad evitare quello che purtroppo accade, cioè la assuefarsia, la convivenza con la camorra e con la criminalità organizzata. Il tutto è nato da un progetto, da un'idea di una poetessa, Rosaria Iazzetta, che appunto, sapendo che i clan di Ercolano erano soliti scrivere sui muri, diciamo, delle scritte o intimidatorie o dei messaggi appunto di intimidazione, ha avuto questa idea appunto di utilizzare il messaggio, appunto l'immagine poetica, la frase poetica per scuotere le coscienze e avere sempre alta la capacità di reazione. Ecco, io vorrei chiederle questo. Alcuni giorni dopo le prime testimonianze che la Procura di Napoli aveva invocato per riconoscere quello che poi si è scoperto essere, o almeno dovrebbe essere, un pregiudicato che ha compiuto nel rione Sanità nel maggio del 2009 quell'omicidio così clamoroso, Roberto Saviano ha detto, scrivendo su Repubblica, la città sembra infastidita, Napoli sembra infastidita da queste denunce e anche dal fatto che si è cominciato a capire, le prime voci sono circolate sulle testimonianze. Allora le domando, visto che queste immagini sono molto d'effetto e le frasi, e poi ne parleremo, che l'accompagnano altrettanto, ecco, le chiedo, ma sinceramente sindaco, come ha reagito la sua città? Ma guardi, innanzitutto questo lavoro non è stato fatto in solitudine dalla poetessa o dal sindaco, è stato costruito, è stato un percorso compiuto con le scuole, con gli oratori, quindi c'è stata una partecipazione anche dal basso, che mi sembra un aspetto fondamentale di tutto il progetto. Beh, io direi vitale addirittura. Direi appunto quello che lo contraddistingue, altrimenti certo. Ci potrebbe essere, come dire, una sorta di illuminismo, insomma, cosa che noi dobbiamo evitare, perché dobbiamo asciugare l'acqua in cui nuotano i pescecani della camorra. Quindi se dobbiamo partire dal basso, dove in particolare dalle giovani generazioni, io dico che fondamentale è la camorra nasce molto anche dall'ignoranza, quindi se vogliamo sottrarre i giovani alla camorra dobbiamo fondare soprattutto sulla conoscenza. Io le faccio una domanda, sindaco, che ho fatto ieri al suo collega, Cuomo, che poi richiamerò in causa perché anche oggi è collegato con noi, anzi intanto le do il buongiorno. Buongiorno Cuomo. Buongiorno. Ecco, allora, un manifesto che mi ha colpito molto, sindaco Daniele, è quello in cui c'è un paniere con dentro del pane e poi ci sono dei pani fatti a forma di pistole, no? Questa immagine è bellissima, è cruda, drammatica, e lo slogan che l'accompagna di questa poetessa che lei ha chiamato prima in causa è: ogni giorno facciamo delle scelte, da loro dipende la nostra felicità. Ecco, una frase splendida, l'immagine cruda, meravigliosa, ed evoca appunto, ecco, quali scelte che voi fate quotidianamente per essere felici e guardarvi in faccia allo specchio sereni e tranquilli ogni qualvolta tornate a casa. Ma guardi, innanzitutto vorrei dire che questo lavoro che con queste immagini e queste frasi non è che nasce dal nulla, noi abbiamo alle spalle una intensa attività per la legalità. Esatto. Ci ha portato appunto ad essere molto attivi contro l'abusivismo edilizio, abbiamo fatto più di 40 demolizioni di edifici abusivi, abbiamo molto, credo, ben utilizzato i beni confiscati ai clan, abbiamo istituito una radio in un appartamento di un boss come Radio Siani, oppure in un altro appartamento, sempre un altro edificio sempre confiscato alla camorra, abbiamo realizzato Casa Mandela, cioè un luogo di accoglienza per gli extracomunitari richiedenti asilo e così via. Abbiamo un'associazione anti-racket molto, molto forte che ha dato un grandissimo contributo con questi che io chiamo eroi civili, che hanno denunciato in prima persona gli estorsori e i camorristi. Quindi insomma, a Ercolano ogni giorno, come dire, c'è in campo un lavoro, un'iniziativa, certo difficile, complicata, insomma, ma questa iniziativa c'è, e soprattutto cercando di dare il buon esempio, perché di questo hanno bisogno i giovani. I giovani hanno bisogno di avere fiducia nella democrazia, ma questo può venire solo se appunto chi ha le principali responsabilità pubbliche certo. Trasmette un messaggio di linearità di comportamento, certo, assolutamente. Di rigore, di serietà, di impegno in prima persona. Assolutamente, ed è doveroso che si dia voce a queste vostre attività, a questi vostri comportamenti, a queste vostre scelte quotidiane, perché poi dopo si fa, se no, di tutta un'erba un fascio, e quindi il Sud diventa soltanto malavita. Purtroppo la malavita è quella che offusca il resto, ma il Sud non è malavita, è cultura, è storia e legalità. Sindaco Cuomo, una campagna del genere a Portici sarebbe immaginabile, impossibile? Siete pronti per farla? Troverebbe il terreno giusto? Oppure vi trovereste i manifesti strappati il giorno prima del giorno in cui decidete di affiggerli? Assolutamente è praticabile, tra l'altro è stata già praticata, abbiamo avuto tantissime iniziative, soprattutto con le scuole, abbiamo sfilato più volte diciamo quelle marce non simboliche ma molto sentite, noi abbiamo portato gli studenti per strada, anzi gli studenti hanno portato noi per strada, quindi sono convinto, tra l'altro apprezzo molto questa idea del sindaco Daniele, che è stata una buonissima iniziativa, siccome le nostre città diciamo sono divise da un marciapiede sia al lato sud che al lato nord. perché non mettere in campo la stessa iniziativa? Quindi, ecco, infatti io prima dicevo, senza soluzione di continuità, ci sono questi comuni quali appunto Ercolano, Portici, Torre Annunziata, insomma è la grande cintura urbana di Napoli, che complessivamente conta milioni e milioni, la provincia più popolosa in Europa, quella di Napoli. Sindaco Daniele, torno a lei per un'ultima domanda, cosa che ha messo molto a cuore: legalità e scuole. Come dire, quanto voi avete seguito nelle scuole con le iniziative che fate? Non solo abbiamo seguito, ma devo dire, le scuole sono davanti a noi, cioè nel senso che in prima linea, in prima fila ci sono le scuole, ci sono i nostri dirigenti scolastici, il corpo docente, che abbiamo un'iniziativa costante di educazione alla legalità, abbiamo magistrati, rappresentanti delle forze dell'ordine, i nostri stessi vigili urbani, facciamo un continuo lavoro importantissimo nelle ecco, scuole con i ragazzi. Dico questo perché sono rimasto colpito personalmente da un episodio. Alcuni giorni fa mia figlia è tornata scandalizzata, frequenta il liceo scientifico in Lombardia, è rimasta scandalizzata perché nessuno dei suoi 15 compagni di classe sapeva che cosa fosse successo a Napoli, a Rione Sanità. Se non c'è formazione a scuola e nelle famiglie, l'illegalità vince con mani basse. Ringrazio i nostri sindaci, ringrazio in regia Filippo Aureggi e in studio Elisabetta Fusconi e Roberto Galullo. Vi dà appuntamento domani per una nuova puntata.